La Turrione di Piccini Production, in associazione con la Strada di Pezzola Rosa a dirotta con una gratta caso, presentano una nuova puntata di C'è una cambiale per te. Conduce Maria e Filippo.